51 minuti primi le frequenze, quelle di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale, nonché in dub da Roma, Perugia, Terni. Five o'clock ai controlli, ma poi controlli di che? Della parola controllo, forse l'unica desinenza o l'unico senso che riusciamo a dare è quello dell'autocontrollo, e manco tanto, eh. Perché nei giusti luoghi, nelle giuste condizioni, anche bene perderlo l'autocontrollo, è anche umano farlo. E quindi 25 o'clock controlla, ma così, con rimorso. Facciamo quell'attività che tanti anni fa si sarebbe detta: vabbè, vado a mettere i dischi in radio, l'abbiamo ripetuto mille volte. Però da quello nasce il nostro atteggiamento, la nostra attitudine, così il nostro milieu culturale. Anti DJ, anti Star System. Alle volte quando ci si mettiamo pure un po' antipatico. Diciamo, in vecchiaia è una cosa che ci riesce molto bene. L'essere brontoloni. E quindi a tutte le brontolone e i brontoloni, benvenuti all'ascolto di 25 o'clock. Ricordiamo che la radio vive grazie al contributo di brontolone e brontoloni. Poco metteremo in piedi per benino, in tutto il suo splendore, la campagna di radio abbonamento di Radio Onda Rossa, il crowdfunding che ci permette di campare per un anno intero. Ma ancora non vi diciamo nulla, perché è tutto molto segreto. Vi ricordiamo il 61 80 40 01, da conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma San Lollo, che è l'appoggio su cui potete sistemare i vostri eurini per far vivere la radio anche in questi mesi, qualora vi avanza qualche spiccio. Mi raccomando, pensate alla radio, pensate a quanta e a quanto vi tiene informati e informate, a quanto vi fa incazzare, a quanto vi fa sorridere. Per perché insomma la sottoscrizione è importante, sono importanti i crowdfunding, però insomma non ci piace nemmeno troppo martellarvi con la necessità dei soldi. Se lo fate spontaneamente, se ci avete un pensiero per noi altri e noi altri, la radio vive prospera. www.fondrossa.info, il sito, andate su sostieni, troverete tutte le modalità per sostenere la radio. 0649 1750, recapito telefonico, ondarossa@ondarossa.info, la casella di posta elettronica della radio, 25 o'clock@ondarossa.info, 25 scritto al numero, per molestare il sottoscritto. Cominciamo zompettanti. E scoppiettanti, come si addice in questa parte dell'anno. de matea. La jauna ez dakira la idazte. Y arrancar de la piel a tiras la la. Della modulazione di frequenza Radio Onda Rossa 25 o'clock si è iniziati con Banda Baciocchi, il lavoro del 2010. Che si chiamava Bache Carraietta Craco Borroca Cantac. Vabbè, tutto sommato la lingua basca non è così ostica, almeno per la pronuncia. Poi avremmo sbagliata sicuramente. Banda Baciocchi, per chi non li ricorda, una delle band dal vivo più travolgenti, folle, spaccano veramente tutto, pur restando praticamente immobili sul palco. Una sorta di Blues Brother, però assolutamente con punti della loro presenza sul palco, malgrado appunto i suoni che producono e la gran caciara che mettono in atto a livello sonoro. Ovviamente abbiamo ascoltato Gazza, l'avete ascoltata la breve Gazza. Stiamo parlando del 2010, a proposito di chi dice che è tutto iniziato il 7 ottobre. Andatevi a studiare la storia e anche la geografia. Tanto per dirne una, possiamo ritornare indietro nel tempo di un secolo e mezzo. Per delineare quella che è una delle ultime esperienze, diciamo, avventure colonialiste bianche in altri luoghi del pianeta, abbastanza classica per certi aspetti, abbastanza caratteristica e peculiare per altri aspetti, ma sempre di impresa coloniale si tratta. E poi abbiamo ascoltato la sgambettante Amnesty, quindi lasciamo Banda Bajoghi e approfittiamo di questo basso per rimanere nei Paesi Baschi, andando ancora più indietro nel tempo. Eravamo Pischelli all'epoca, Cortado. Live, Okernago, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. No, che ho detto? Exterati, la terza traccia, portato a Radio Onda Rossa. Perché? Perché chi c'ha un po' più dei peli bianchi, un po' di rughe sulla faccia e un po' di anni in bisaccia, sa che in questo periodo dell'anno ricordiamo quello che era un po' il capostipite di questo spazio. 23 anni fa se ne andò, ma non anticipiamo molto perché vediamo un po' la prossima settimana cosa si può fare. Non abbiamo organizzato nulla quest'anno, comunque, insomma, ricordando Roberto Patata di nuovo da capo. Exterat, Cortado a Radio Onda Rossa. Yeah. città di Herria. Equilibrio! Proseguiamo con lo quello della Tuscia. E stava tan borraccia nella barra del bar, e stava nei colori sola. Salta in aria. Maleducazione alcolica. Produzione Tuscia Clan. Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza. Daje. È un amore grande che ti rende anormale. Dio. Non ho paura della muerte e non credo nella suerte, ma ciò che vedo allora io tocco con mano, sono realista e vado oltre la mia vista. In questo mondo io sì sono un artista. Non calcolo ma vivo il mio pensiero, libero come le ali di un uccello. Vivo in aria senza tempo, mentre te adesso lascio l'ansia del progresso. Come vaga la mia mente, tra amori, tra le nuvole, scorre normalmente. Io che vago libero, sono una nuvola e io che sono niente. Minuti primi e le riflessioni che ci avevamo è delle persone che non vogliono smettere di lavorare mai, e ci siamo così visti mentre sfuma lentamente gli scasso, eccola qua. vago libero. E questa è una coverona, diciamo tutte e tutti quelli che non vogliono smettere di lavorare, boh. 40 anni non vi son bastati. A fare gli stessi gesti ripetitivi. È come se il lavoro distruggesse, ci succhiasse ogni energia vitale. E fossimo incapaci di farne a meno. E questa è una delle più drammatiche, poi. Dei più drammatici mutamenti culturali che sono avvenuti e che abbiamo vissuto in questo paese, ma probabilmente anche altrove. Forse una delle conquiste più grandi proprio delle lotte operaie del Novecento è stata quella di separare il lavoro dalla vita, farne una complementarità dell'uno sull'altro. C'era oggi, proprio sentivamo per radio, una interessante corrispondenza riguardo un convegno che si è tenuto proprio a Genova riguardo anche questo. Delle trasformazioni culturali avvenute nel mondo del lavoro e nella società che ci è costruita intorno. Di come una collettività che era quella appunto dei lavoratori e delle lavoratrici, che è diventata una singolarità, perdendo quell'orizzonte collettivo, quel sentirsi parte di un mondo che era opposto a un'altra entità grande, un po' inconsistente eppure potente, che era quella del capitale. È come se questa dialettica, questo spostamento che esiste appunto e che in qualche maniera dava senso alla vita delle persone, si forse perse in mille rivoli in cui il capitale ha compiuto la sua parabola definitiva, cioè quella di nascondersi, di celarsi, di scomparire. Sospira come è stata curta sta giornata, risponde il ragazzo de bottega, è stata curta cazzo che te frega. Ve la rimettiamo da capo, non vi preoccupate. Di seguito, due grandi, due grandi ripetizioni qua sulle frequenze di Radio Onda Rossa e soprattutto a 25 o'clock. Siamo orgogliosi, se può dire, fieri, vabbè, contenti, contenti, eppure contente, insomma, siamo estensivi in questo, come radio, comunque, insomma, due tracce, due brani consumati veramente in questa fascia oraria e un po' in tutta la, il palinsesto della radio, dato che in special modo Scintilla gira a manetta da tanti anni sull'automatico della radio. E quindi razza a parte, notte quando decisero di dedicarsi così a quella che era la cosiddetta musica popolare o musica folk, anche con le radici nella Tuscia e nel Viterbese, e di seguito Scintilla Muzunga Trash Orchestra in qualche maniera ci restituiscono, sono in grado di dissolvere o creare le atmosfere di chi è sensibile al fatto che il lavoro ci distrugga la vita, e di questo bisogna avere coscienza. Deve essere il punto di partenza per ogni ragionamento. E noi ce ne andiamo invece in uno dei pub malfamati di Boston, dove il lavoro si lascia alle spalle. E si va a bere birra, ad ascoltare musica. Dropkick Murphys. The Last One, da capo, quando proprio era finita. Dai, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Damn deck to play. Dance show in the- che bella sequenza di rocksteady ska a Radio Onda Rossa, come non si sentiva da un po' di tempo. Dalla Russia, Froglegs, Cornbread, il pane di mais, e poi invece da qua dietro Shot in the Dark. Version di Freedom Sound. E vi abbiamo fatto sorridere, vi abbiamo tenuto il buon umore. In diretta dall'altra parte dell'oceano, proveniente dal mix di culture e di suoni, soprattutto di culture musicali e di suoni che erano nel crogiolo della Giamaica degli anni 60, arrivato fino ai giorni d'oggi attraverso infinite repliche. Lasciamo lo ska, diciamo, rocksteady. E tutta quella miscela di ritmi, tenendoci però nel mondo dei fiati, andando, ritornando e andando in Nord Europa, in quel di Alburgo, da dove provengono i Meute. Che significa appunto in tedesco banda, e che appunto uniscono i suoni delle big band da strada a quello di ritmiche elettroniche e inserti techno. Questo è anti-ludness. Perché anti-ludness? Perché i bassi sono già presenti per conto loro. minuti dopo la mezzanotte, questa 6 minuti e 51, quasi 7 minuti, era Inner Space Traum. Traum che sono Luca Ciffo, il lungo addio Faz Orchestra, Luca Mai degli Zoo, Paolo Mongardi della Faz Orchestra e Lorenzo Stecconi dei Lento, quindi provenienze da Roma, dalla Romagna, da Milano. E questa Inner Space è tratta dalla raccolta di Vedian, 182 tracce, 19 ore di musica. Art is never finished, only abandoned. Here's the situation. Mentre è partito sotto la nostra voce Fresno Bob. While I'm in a transitional period and I don't want a kid, I want to help you. But I can't give you this case, because it don't belong to me. Di cui non siamo riusciti a cogliere informazioni sulla rete, quindi rimangono. You read the Bible, Ringo? Not lately, no. Nell'incognito, nell'ignoto, questi Fresno Bob. Shepherd of the Evil Man, Julius Winfield. The path of the righteous man. Così si chiama questa traccia che. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the wheat to the valley of death. Nella lunga raccolta di Psycho Stoner Doom Great Vengeance and Furious Anger, those who attempt di Vedian è la 58esima. Quindi da capo Fresno Bob Shepherd of Evil Man. I've been saying that shit. And if you heard it, that meant your head. Transitional period and I don't want a kid, I want to help you. But I can't give you this case, because it don't belong to me. Besides, I've been through too much shit over this case this morning to just hand it over to your dumbass. You read the Bible, Ringo? Not lately, no. Well, there's this passage I got memorized. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the wheat to the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know I am the Lord when I lay my vengeance upon you. I've been saying that shit. And if you heard it, that meant your ass. I never gave much thought to what it meant. I just thought it was some cold-blooded shit to say to a motherfucker before I popped a cap in his ass. I saw some shit this morning made me think twice. See, now I'm thinking, maybe it means you're the evil man, and I'm the righteous man. And Mr. 9mm here, he's the shepherd protecting my righteous ass in the valley of darkness. Or it could mean you're the righteous man and I'm the shepherd. And it's the world that's evil, selfish. And I like that. But that shit ain't the truth. The truth is, you're the weak. 9 minuti dopo la mezzanotte. Stavolta sappiamo da dove vengono, da Buzzelle, che non è una Bruxelles così cisalpina, bensì una frazione dalla provincia di Piacenza. Non mancano di una buona dose di ironia e autoironia Zolle, maialini e maialine a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Passiamo invece nell'isola, quella grande, la Sardegna, da Olbia, sangue, Cile. 74esima traccia dalla raccolta Trip to Italy, Art is never finished, only abandoned. Da capo, da Olbia, sangue. di tutte le tracce proposte da Vedian, che è andato a raccogliere le band italiane e non solo, cioè ci sono anche altre raccolte che riguardano numerose altre aree del mondo, riguarda appunto lo stoner doom metal psycho space rock eccetera eccetera. Sono senz'altro quelli che vanno adesso sotto la nostra voce e che vi rifaremo ascoltare, la più sorprendente di tutte le band che finora abbiamo ascoltato, cioè circa la metà della raccolta. Sono questi Mega Ride che insomma per parecchio tempo, prima di informarmi correttamente, pensavo che era Mega Ride e che pure funziona, ma Mega Ride è l'isola invece che sta nel Golfo di Napoli, dove c'è sta Castel dell'Ovo, e infatti loro cantano questo pesante stoner in napoletano, a conferma che la lingua napoletana possa funzionare la qualunque, proprio in musica chi canta in napoletano canta bene. Una lingua che si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di sonorità e anche appunto le più sorprendenti. Sentite come suonano questi Mega Ride, questo è Rosso Marte, da capo a Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Tutte vai! don't wanna see them go. I don't want you in the eye. I won't answer yes or no. I want intercourse, your mind. Lucky enough, being left outside. I don't want that, what that for? And because he's my wife. Don't seek respect, gonna die alone anyhow. I won't let you read my hand. I don't wanna pet your dog. I don't know you, you don't know me. And I've been trying to be kind. I won't pay attention to you, just to build a pile of nothing. Quattro minuti dopo la mezzanotte, quindi ci avviciniamo verso la fine. Abbiamo concluso la parte riguardante la raccolta Trip to Italy di Vedian. Con la psichedelia cosmica degli Sherpa provenienti dall'Abruzzo, Descent of Inanna to the Underworld abbiamo ascoltato, e poi di seguito, che va ancora sotto la nostra voce, le ultime proposte, le ultime tracce confezionate da Roberto Falconieri, in attesa di non si sa bene cosa, comunque un progetto che sta sviluppando traccia dopo traccia e sta registrando un po' alla volta. File or Nothing è la cosa che stiamo ascoltando, la ballata. Con questo noi ci avviamo verso la conclusione. Non è l'ultima traccia, eh? Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 25 O'Clock, 06 491 750, recapito telefonico. Vi invitiamo a sottoscrivere per la radio, perché la radio vive grazie al contributo di tutte e tutti voi, sia esso un contributo materiale fatto, cioè di partecipazioni varie alla vita della radio, corrispondenze, interventi, critiche e apprezzamenti, e i tanti che si mobilitano in qualsiasi maniera da tutte le parti, veramente, oltre che da noi, d'Italia e d'Europa, per sostenere la radio, così, mettendo su delle iniziative. Thank you. andare via. 42 minuti dopo la mezzanotte, le programmazioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono con noi. Dopo aver ascoltato No Reason, Chemical Brother, o magari chi è più avvezzo, Chemical Brother, con le lingue dell'impero. Si prosegue quindi Compagnia della Compagna Automatica Sonata con le sue programmazioni musicali piuttosto bizzarre. Intervallate da una rassegna delle trasmissioni che la radio propone. Nel suo palinsesto giornaliero si riprende questa mattina alle ore 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadini redazionali, fino all'incirca a mezzogiorno del giovedì. Si prosegue alle 12.45 con la replica di Impatto. Poi dalle 14 alle 15 la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa, tutta scena cinema, la replica di Disorder dalle 15.30 alle 16.30, alle 17 La Schiena del Sol. Poi la fascia oraria dalle 20 alle 21.30 è occupato dalla trasmissione sui libri, la trasmissione che legge per voi Tabula Rasa, e alle 21.45 alle 21.45 il nostro fagiolino con il Noctibus Panis a chiudere I Cuginetti d'Apostasia dalle 23 in avanti. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione per migranti, decreti amministrativi vari e comunque soggetti specie, per chi anima le lotte, si muove a un controllo sempre più occulto e ferreo tramite i ritrovati della tecnica e il fatto che noi andiamo in giro con un apparecchio radio ricetrasmittente che fa pure un sacco di altre cose, fra cui seguire i nostri movimenti e leggere le nostre parole, intenzioni, messaggi. Dovremmo essere la prossima settimana, anche perché appunto sabato è il 15 di febbraio, a noi preme di dover comunque ritornare, ricordare quelle che sono le nostre radici, il nostro trascorso, il nostro essere frutto di una lunga storia di cui fa parte anche Roberto Massi detto il Patata, appunto, che il 15 maggio del 2002 ci lasciò, e vediamo come ogni anno di organizzare qualcosa almeno il mercoledì successivo. Bella a tutti e a tutte, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista, daje.